avrai di togliere le scarpe, le calze, il pantalone e la maglietta. Poi non mi dire che soffri di gatto per questo gioco, Nico. Vabbè, so che il tuo vero nome è quello là. Perché toccando i piedi mi rilassano i nervi, capito? Lo so che tu non sei peloso, lo so, ma io un poco, un pochettino, un poco già si vedo, capo. Perché sei bravo, no? Adesso te la fa tuo padre, aspetta. Aspetta la scena. Un attimino, Nicola, che sta per fare una casa di questo coglione. Ora è stato fatto. Domani mattina te la fa tua madre. E se tua madre non prende provvedimenti, poi vediamo. Poi te la mando io. A casa tua, non scompa. Domani alle 9 ti squillettavo a casa tua, non scompa. Proprio a fare una casa tua. Detto questo, ti ho detto tutto. Se vedessi tua madre si toglie il baracchino. Perché non sta per fare una tua madre? No? E non fai l'indiano, no? Domani mattina sta per fare una tua madre. Poi non dire che non me la passi, capito? Adesso non ti dico niente, vecchio. Domani lo sentirai quando parlo con tua madre. Capito? Quello devi fare il porco, capito? Come dici tu, il finocchio, capito? Eh? Domani mattina a te ti squilla la testa, capito? Coglione.